24 mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Roma, come tutte le mattine, in fila su via Salaria, ma non c'era il blocco. Ed ecco qua con un nostro ascoltatore, chissà con quanti in fila sulla Salaria. Cara Maria, buongiorno. Maria Latella, eccola. Buongiorno, tra l'altro Roma stamattina offre una meravigliosa giornata di sole, cielo, non dico proprio azzurro terso, ma insomma, io sai che cosa sogno? Sogno una capitale dove le piste ciclabili siano davvero introdotte dappertutto. Lo so che è una città con tante salite e tante discese, la città dei sette colli, però esistono anche le bici elettriche. Sai quanto farebbero meno male dei motorini e delle moto che sono anche molto più rischiose. Comunque adesso, Roma adesso nel blocco. Il mio pensiero va ai nostri ascoltatori che sono in fila. Che sono in fila nel traffico e a quelli che invece hanno deciso di rimanere a casa perché c'era il blocco appunto degli Euro 6 e magari non hanno potuto portare i figli a scuola, non sono potuti andare al lavoro, si sono dovuti muovere tardi. Vabbè, speriamo che piova porti via un po' di questo inquinamento. 3:49:238:6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp. Anche audio e l'800 24 00 24 per intervenire in diretta. Di cosa parleremo oggi? Inizieremo dai dossier esteri del governo e lo facciamo con Manlio Di Stefano, sottosegretario agli esteri che torna da noi del Movimento 5 Stelle. Di Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Maria, prego. Buongiorno Manlio Di Stefano. Io devo ammettere che sono anche molto curiosa di quello che sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle e nella relazione col Partito Democratico. Per cui, prima di tutto, le faccio una domanda ovviamente su la sua reazione alle notizie di oggi per quanto riguarda la questione libica, vale a dire Haftar che lascia Mosca senza aver firmato una trattativa di pace. Come lo interpreta questo? E secondo, visto che domenica a Berlino ci sarà finalmente il vertice che dovrebbe riportare anche l'Europa al centro di tutto, a noi italiani che ruolo verrà riservato concretamente, visto che le cose le sta decidendo il partner forte dell'Europa, la signora Merkel, con Putin e con Erdogan? Ma intanto sulla questione degli Haftar di oggi, chiaramente va monitorato quello che succede in giornata in realtà, perché lui stesso ieri aveva detto che aveva bisogno di 24 ore, è evidente che lui sappia perfettamente che non può prescindere dal sostegno dei suoi alleati storici, che sono appunto la Russia e altri. E quindi se l'impegno del presidente Putin e anche del presidente Erdogan con la Turchia è concreto nel pacificare, allora Haftar dovrà prenderne in qualche modo atto. Credo che lui stia giocando una partita molto interna in realtà, sia verso le sue forze che lo vedono chiaramente in questo modo politicamente capitolare, ma anche verso l'Egitto, che si troverebbe ad aver sostenuto qualcuno che non è in grado di metterli poi di nuovo al tavolo dei potenti, mettiamola così, perché l'Egitto è il grande escluso probabilmente in questo momento dalle varie trattative che ci sono in corso. E io credo che l'Italia stia giocando un ruolo importante da questo punto di vista, perché è il paese che ha riportato un po' di pragmatismo in questa storia, che si era cristallizzata sulla conferenza di Berlino come se bastasse mettere la gente attorno al tavolo per risolvere le cose, andiamoci a parlare con tutti questi attori, troviamo prima una quadra e poi facciamo una conferenza. La conferenza prende atto di questo sostanzialmente, dell'aver rimesso al tavolo tutti i vari attori. Vi ricorderete che il primo annuncio della conferenza l'ha fatta arrabbiare sostanzialmente tutti, perché si pensava di mettere attorno al tavolo soltanto i cosiddetti bad boys, senza mettere sostanzialmente tutti quelli che invece hanno interessi, e quindi non avremmo mai risolto nulla. Quindi l'Italia se l'è creato il ruolo, se l'è ricavato e oggi ci viene riconosciuto, perché tutte le cancellerie europee parlano col ministro Di Maio e col presidente Conte prima di qualunque passo in questo momento. Tutte le cancellerie europee? Sì, assolutamente sì. Cioè, assolutamente prima sì. Di muoversi con gli attori libici chiamano Conte o Di Maio? Assolutamente sì, in questo momento. Anche perché in questo momento si stanno muovendo poco gli altri, nel senso che il coordinamento più importante in questo momento è quello tra Italia e Germania, ovviamente, per la conferenza di Berlino. Gli altri hanno garantito di evitare qualunque forma di fuga e tutto quello che sta pagando è in coordinamento in questo momento, che è molto importante. E avete visto che infatti chi si è mosso davvero poi sul terreno sono il ministro Di Maio e il presidente Conte, con visite costanti nelle ultime due settimane a tutti i paesi, incluso quelli del Nord Africa, in Tunisia, Marocco, sì. Algeria, che sono necessariamente coinvolti. Ascolti Di Stefano, oggi Roberto Bongiorni sul Sole 24 Ore intervista il coordinatore del forum delle tribù libiche. Lei ha parlato della necessità di coinvolgere tutti gli attori in campo, e noi sappiamo perfettamente che storicamente senza le tribù libiche la pace in Libia non si fa, o comunque è molto difficile. Mentre ci siamo polarizzati un po' sui due attori principali, che sono Haftar e Sarraj, anche per ovvi motivi, naturalmente per motivi militari. Due domande. Immagina che sia possibile un coinvolgimento delle tribù e che l'Italia possa avere un ruolo centrale. Seconda domanda, dato che su questo tema ha dei precedenti positivi, pensa che Minniti, una figura come quella di Marco Minniti, possa servire allo scopo? Allora, sulla prima domanda dico certamente sì, si possono integrare, ma in una seconda fase, che la prima fase, che è quella che stiamo cercando di raggiungere più presto, è un cessato del fuoco duraturo, perché se l'è già raggiunto in passato era durato 3 giorni, quindi è una fase più di interrompere ogni forma di finanziamento e di sostegno militare a chi si sta facendo la guerra. E questo passa necessariamente anche da la proposta, ad esempio, che ha fatto Di Maio in questi giorni, ovvero di una forza di interposizione europea che possa poi garantire che il cessate il fuoco mantenga, quindi che possa controllare cielo, mare, confini e terra, quindi, affinché non entrino armi e non si continui su quella strada. Quindi quella è la prima fase. Nella seconda, che sarà quella politica, che dovrebbe portare poi elezioni, chiaramente vanno coinvolti tutti, incluso le tribù. Non a caso Di Maio è andato anche in Tunisia e in Algeria, perché il sud della Libia ha anche tribù di quella etnia, storicamente, anticamente. E su Minniti? Per quanto riguarda Minniti, sinceramente noi se ne è parlato del commissario, di un commissario straordinario per la Libia, ma la questione sta correndo così velocemente che in questo momento di fatto la questione è uscita abbastanza di scena. Minniti ha lavorato sulla Libia in passato, ma per me il totonomi non ha senso finché non si capisce davvero cosa si vuole raggiungere. Non ne stiamo parlando più, sinceramente, in questo momento, perché è già gestita la cosa, ma c'è bisogno di un commissario in questo momento, è la priorità del ministro. A proposito di rapporti col Partito Democratico, in queste ore c'è in corso un conclave del Partito Democratico in provincia di Rieti, voci forti del PD come Goffredo Bettini hanno lanciato un'alleanza strutturale tra Partito Democratico e 5 Stelle. Il governo Conte va considerato come incubatore politico e le forze che lo compongono, ha detto Bettini, potrebbero costituire alle prossime elezioni politiche un'alleanza ampia e democratica da schierare contro la destra. È una prospettiva che personalmente le interessa? Pensa che sia la strada giusta da percorrere insieme Partito Democratico e Movimento 5 Stelle? Guardi, io non mi sono mai entusiasmato per questi ragionamenti, perché credo che il Movimento 5 Stelle sia un unicum nella storia italiana e anche del mondo, in realtà, della politica, e abbia la sua forza proprio nell'incidere portando il suo messaggio, che è un messaggio innovativo, che è un messaggio moderno, che è un messaggio che ha già cambiato in questi 2 anni le cose in Italia, perché grandi riforme tipo il taglio dei parlamentari, il taglio dei vitalizi, il reddito di cittadinanza non sarebbero mai fatte senza il Movimento 5 Stelle. Il PD tra l'altro fa il congresso, ma nel frattempo parla di un prossimo congresso in cui non sostanzialmente potrebbe non esistere più il PD, cambiare in altre forme, quindi io credo che ogni partito abbia il giusto diritto e dovere di evolversi per la sua naturale storia e propensione. e poi alle elezioni si gioca la partita e si vede come sono le carte in tavola, ma io non farei nessun ragionamento strutturale né ora e né più avanti, nel senso che la storia dimostra che, specialmente con la riforma elettorale che stiamo provando a fare, che è una riforma proporzionale, le coalizioni si fanno su programmi e non ideologiche. Noi abbiamo superato abbondantemente da anni il concetto ideologico di destra e sinistra, quindi la guerra non la faremo a nessuno alle elezioni, noi facciamo la guerra sul programma da portare avanti per gli italiani, quello lo facciamo sempre, ma non mi metterei a ragionare sul come sconfiggere qualcun altro, ma come vincere per qualcuno, questo farei. Ascolti di Stefano, una questione che riguarda il ministero del quale lei fa parte, ossia il ministero degli esteri, viene sollevata tra l'altro oggi dal Corriere della Sera, però ci sembra una questione rilevante che riguarda tutte le nostre imprese, ossia la questione dell'export in una fase di dazi e di rischi di guerra commerciale. Ministro Di Maio, quando è arrivato alla carica di ministro degli esteri, ha voluto che la delega all'export passasse al ministero degli esteri invece che rimanere al Ministero delle Attività Produttive. Però ci pare di capire che al momento non siano state attribuite deleghe, cioè né lei né Scalfarotto né nessuno in questo momento ha in mano le deleghe per gestire un capitolo fondamentale per la nostra economia. Ci dà un'idea di chi è l'interlocutore italiano per le questioni che hanno a che fare con l'export, che tratta sui dazi e via dicendo? C'è un po' di chiarezza. Le deleghe del commercio dal MISE al MAI, c'è una riforma che si prova a fare da 2 anni, da quando sono arrivato al Ministero degli Affari Esteri, e ci siamo finalmente riusciti, perché vanno a completare ciò di cui mi sono occupato per 2 anni, ovvero l'internazionalizzazione durante quando il ministro era ancora Moavero, che è l'altra faccia della medaglia del commercio estero. E ora gli interlocutori sono sempre gli stessi, nel senso che le deleghe non sono state date perché non sono state date in nessun ministero ancora, se ci fate caso, e chiaramente quella è una partita che va risolta tutta in blocco. Ciò non toglie che si lavori lo stesso, perché la delega è un atto formale, ma si delega ad hoc, come si vuol dire. Quindi la cabina di regia che oggi si discute sul Corriere della Sera, infatti mi ha stupito l'articolo, è stata fatta prima di Natale, il 20 di dicembre, l'ha presieduta il ministro Di Maio con il ministro Patuanelli e alla presenza di tutti gli altri ministeri, quindi è stata fatta. Chi va a trattare di Stefano? Ma tratta direttamente Di Maio, tratto io, tratta se il caso Scalfarotto, ma chiunque, nel senso che noi utilizziamo ogni missione di sistema per trattare, non solo. Nella questione specifica dei dazi c'è persino il presidente Conte che ha un rapporto diretto col presidente Trump e ne parla. Se, tra l'altro, voglio dirvi, se nella prima tranche di dazi, quando la Francia è stata colpita duramente, l'Italia è stata colpita marginalmente per 500 milioni soltanto, da 5 miliardi che erano previsti, è proprio perché abbiamo trattato per 2 anni. Di conseguenza c'è questo, non c'è nessun problema. Poi l'articolo del Corriere è abbastanza simpatico dal mio punto di vista, abbastanza di parte, perché fa immaginare che serve Salvatore della Patria che arriva da Italia Viva per iniziare a parlare di export. Lo facciamo ringraziare. In pratica lei sta dicendo che è stato Scalfarotto a suggerire questo articolo al Corriere? Gli darei dei poteri che credo non abbia. Credo però che ci sia sicuramente sempre una certa parte di stampa che cerca di denigrare, perché quello è un argomento. Se vi dico i dati dell'export da 2 anni a questa parte, in cui ce ne occupiamo, abbiamo il 60% di media installate dalla Asia centrale in più in avanti, in crescita. Vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro già fino ad oggi, quindi credo che non ci sia né da avere paura. L'hanno fatto soprattutto le imprese. Maria, l'hanno fatto soprattutto le imprese italiane questo lavoro, però insomma, comunque il governo ci avrà messo il suo. Lo dico sempre questo, hanno fatto le imprese italiane che hanno bisogno soltanto di un framework positivo creato dalla politica, perché in paesi che non hanno le grandi democrazie, diciamo, occidentali, c'è bisogno di un contatto politico per prendere i progetti, poi questo è innegabile, e quindi noi lavoriamo di sistema, come ci piace dire, le imprese, le banche, perché la parte finanziaria è fondamentale, Cassa Depositi e Prestiti ad esempio, e la politica è portarla avanti, questo è quello che stiamo facendo da anni, e quindi sono felice che stiamo riuscendo a fare. È quello che fanno Germania e Francia da sempre, esatto. Quindi speriamo che lo faccia bene anche l'Italia. Senta Di Stefano, sono curiosa di capire se lei ha capito che cosa intendono fare l'ex senatore del Movimento 5 Stelle Paragone, sempre senatore è rimasto ma non è più del Movimento 5 Stelle, con Di Battista. Paragone ha detto che vogliono fare qualcosa di culturale che si richiama alle origini del movimento. Un movimento che si divide da una parte Di Battista con chi ci sta e dall'altra magari Spadafora con col presidente della Camera Roberto Fico? Ma guardi, penso che la ringrazio per aver sottolineato che è rimasto senatore, come tutti quelli che se ne vanno perché dicono che il movimento è brutto e cattivo, però poi rimangono con la poltrona ben incollata al sedere, al Senato o alla Camera. Detto ciò, non credo in questa spaccatura. Con Di Battista ci ho parlato proprio in questi giorni, anche per altri motivi, e mi ha detto chiaramente che non ha nessun progetto in divenire su questo con questa visione, quantomeno. Ovviamente lui, si sa, è amico di Paragone, ma ciò non significa che stia lavorando contro il movimento per qualcosa. Credo che in questo momento Paragone stia sfruttando l'onda della popolarità per provare a lanciarsi su qualcosa di che gli possa portare visibilità in futuro. Buon per lui, peggio per la credibilità del soggetto. Grazie Mario Di Stefano, sottosegretario agli esteri, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Ci fermiamo. Buona giornata Di Stefano. Ci fermiamo, una pausa e poi parliamo un po' di PD. Va. Mattino. Luigi Zanda, senatore del Partito Democratico, del quale è tesoriere ed eminente personalità. Zanda, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Prego Maria. Buongiorno senatore. Allora, buongiorno. Abbiamo buongiorno. Appena avuto ospite il vice ministro del Movimento 5 Stelle, Manlio Di Stefano, al quale abbiamo appunto chiesto cosa pensa del dibattito in corso nell'abbazia dove vi siete riuniti in provincia di Rieti, dal quale emerge chiaramente il progetto di un rapporto strutturale tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. L'hanno detto un po' tutti. Due domande. La prima, Manlio Di Stefano ha ribadito che secondo lui il Movimento 5 Stelle ha la caratteristica, diciamo, di essere il partito innovatore, il più innovatore di tutti sulla scena globale, e che non ha nessuna intenzione di fare un cammino, un percorso insieme al PD. Alle elezioni ciascuno va per i fatti suoi e poi si vedrà in sostanza in soldoni. Quindi questo è quello che una parte del movimento Di Stefano rappresenta, questo pensiero, comunque pensa. E dunque come il Partito Democratico pensa di diciamo rapportarsi con questo filone Movimento 5 Stelle? Secondo, se lei personalmente pensa che questa sia la strada obbligata per il Partito Democratico. Ma guardi, io penso che una alleanza di governo per avere un valore politico importante debba avere una prospettiva. Penso che i governi abbiano naturalmente la necessità di governare il presente, il giorno per giorno, ma debbano anche darsi degli obiettivi di medio e lungo termine. E penso che soprattutto in questi tempi l'Italia abbia bisogno di stabilità e di un'amalgama stretta tra le forze politiche che la governano. E quindi penso che questo debba essere un obiettivo delle forze politiche. Devo dire, insomma, io ho fiducia che 5 Stelle col passare del tempo si rendano conto che avere una politica a breve termine non conviene a nessuno, credo che non convenga nemmeno a loro. Zanda, lei ha parlato di stabilità, no? Della necessità di stabilità. Il tema però è stabilità per fare cosa? Cioè l'impressione è che la discussione si sia spostata molto sui contenitori e non abbastanza forse sui contenuti. Cioè nel momento nel quale il vostro partito si vuole porre come una nuova forza aggregante, no? Tirar dentro, se vogliamo, pezzi del Movimento 5 Stelle o che facevano riferimento al Movimento 5 Stelle, ovviamente non ci riferiamo ai parlamentari, ma insomma agli elettori. Pezzi di quel mondo che ha iniziato a fare riferimento alle sardine, via dicendo, beh, insomma, ci vuole, no? Ovviamente un po' di sostanza, un po' di policies più che politics. E su questo fronte come vi ponete? Beh, penso che gli aspetti politici, i rapporti politici siano naturalmente la premessa di tutto, perché se non ci sono dei rapporti politici sostanziosi, buoni e molto, molto, molto radicati, le cose si fanno più difficili, le politiche diventano molto difficili, difficile realizzazione. Naturalmente per fare che cosa? Qua ci sono, noi abbiamo delle enormi questioni davanti, la modernizzazione del paese innanzitutto, la crescita economica in secondo piano, la guerra alle disuguaglianze, che forse oggi è il problema sociale più importante, e naturalmente le grandi politiche, prima di tutto il rinnovamento della scuola, dell'università, della ricerca scientifica, cioè entrare nell'era della conoscenza. Sì, però il centro, mi scusi Zanda, il centro di tutto questo è il come lo fai, no? È su quella base poi che stabilisci il rapporto politico, o no? Beh, come lo fai? Come lo fai dipende appunto dalla coesione delle forze che formano un governo. Noi non siamo una repubblica nella quale una forza politica ha raggiunto da sola la possibilità di governare. Quindi abbiamo bisogno di una coalizione, abbiamo bisogno, perché si parla molto anche di politica, soltanto delle politiche. Perché abbiamo bisogno attualmente di trovare Zanda, mi scusi, abbiamo un problema audio, nel senso io non so dove è collocato lei, però all'inizio della telefonata la sentivamo perfettamente, adesso ci sta scomparendo. Se può ritrovare la posizione ci fa un favore, perché la linea non c'è. Mentre lei la ritrova abbiamo una pausa. Mattino. Ce l'abbiamo, ci proviamo. Zanda ci stava dicendo, eccomi. Insomma, eccolo. Via, eccomi, prego, prego. Volevo introdurre un altro elemento, senatore Zanda. Quando quest'estate c'è stato il passaggio abbastanza tormentato dal governo giallo-verde al governo giallo-rosa o giallo-rosso, come si voglia chiamarlo, lei era tra quelli nel Partito Democratico più cauti nel considerare questa ipotesi. E ricordo alcune sue interviste, segnatamente una Repubblica, in cui diceva: forse faremmo meglio ad andare a votare. All'epoca era appunto agosto, settembre. Ha ragione, ero molto cauto, ha ragione. Ha cambiato idea? Ho cambiato idea, penso che le ragioni fossero da tutte e due le parti, penso che fosse giusto avere prudenza, perché naturalmente si trattava di un'alleanza fra due forze politiche che erano state molto, diciamo, avversarie, l'una contro l'altra negli ultimi tempi, nella prima parte della legislatura, ma anche in tutta la legislatura precedente, e quindi la cautela era necessaria, ed io ne avevo in abbondanza, ma mi rendevo anche conto che c'era un problema molto importante, che è il problema, cioè, di evitare che l'Italia diventasse così terreno di conquista di forze sovraniste. Ecco, però è possibile che il governo continui nella tecnica del rinvio e che di fatto rimanga insieme, perché così Salvini non va al governo? Può essere una ragione sufficiente? No, No, non può essere una ragione sufficiente ed è per questo che il Partito Democratico fa pressione perché il governo trovi innanzitutto una coesione reale e la si smetta con questioni quotidiane tra di noi e poi perché si prenda la linea di un'alleanza stabile con una prospettiva. Alleanza stabile con una prospettiva vuol dire se ci sono alle prossime politiche si va insieme. Beh, si va insieme, alleanza stabile con una prospettiva significa sapere che si sta nello stesso campo e che c'è una prospettiva di continuare a governare insieme. Si cerca una prospettiva per cercare di governare insieme, poi naturalmente ognuno di noi ha il suo partito e tiene a che il suo partito abbia successo. Qualche ascoltatore ci scrive, Zanda, e dice, insomma, sì, va bene, diciamo, il discorso generale, il quadro generale, però poi c'è la concretezza dell'azione di governo, a partire, per esempio, dai decreti sicurezza. Che cosa intendete fare là? Beh, sui decreti sicurezza, guardi, credo che sia un danno per il Paese che non si sia riusciti ancora a metterci mano. Io... personalmente penso che la strada migliore sarebbe quella della loro abrogazione e di un loro ripensamento, ma naturalmente si può procedere anche in altri modi, con una profonda modifica dei due provvedimenti. Certo è che così come sono non possono rimanere. Maria. Senatore Zanda, Salvini in campagna elettorale in Emilia-Romagna sostiene che se il 26 gennaio sarà il centrodestra a vincere in quella regione, bisognerà prendere atto della volontà popolare e tornare alle elezioni politiche. Il Partito Democratico invece in ogni dichiarazione dice il contrario e anche il Presidente del Consiglio Conte continua a dire il voto in Emilia non avrà alcuna influenza sul governo. Ma davvero si potrà non trarre una conclusione se in Emilia vincesse il centrodestra? Ricordo che D'Alema a suo tempo si dimise quando nel Lazio vinse Francesco Storace. Guardi, io tanto le dico in premessa che sono contrario a questi automatismi, perché noi in Italia abbiamo elezioni regionali o in grandi città praticamente ogni trimestre, quindi se noi dovessimo considerare automatiche le dimissioni del governo ogni volta che si perde in una regione o in una grande città, noi avremmo governi trimestrali, non annuali. Ma penso che l'ipotesi sia un'ipotesi senza valore. Lo vedo che ormai anche i sondaggi danno un vantaggio Bonaccini, un vantaggio buono. Penso che Bonaccini abbia conquistato il popolo dell'Emilia-Romagna con il buon governo. Penso che l'ipotesi di Salvini sia un'ipotesi da propaganda elettorale. Detto ciò, Zanda, una sconfitta del Partito Democratico in Emilia-Romagna non è una sconfitta in una regione normale, se consente, no? Insomma, è una cosa che necessariamente dovrebbe imporre una riflessione politica, o no? Non ritiene? Perfettamente ragione, ma quello che le dico, primo, che Bonaccini vincerà, secondo, che gli automatismi non sono una buona regola per l'Italia, le parlo in termini generali, non sono assolutamente una buona regola per l'Italia, penso che anche lei converrà su questo. Allora, legge elettorale, senatore Zanda, tutti siete più o meno d'accordo per il cosiddetto Germanicum con uno sbarramento al 5% tranne l'EU. Ci sono delle ragioni per le quali lei ritiene che appunto la cosa sia fatta, cioè la legge elettorale andrà così o c'è ancora da limare, da cambiare? Guarda, io ho una certa esperienza di leggi elettorali e penso che fino a che la legge elettorale non è approvata non bisogna mai star tranquilli, ma penso che anche qua per l'Italia serve una legge elettorale che abbia una forte capacità di rappresentanza ed abbia anche una forte possibilità di dare al paese un governo che sappia che possa resistere nel tempo. Una legge elettorale proporzionale garantisce la rappresentanza, uno sbarramento alto, non meno del 5%, non meno del 5%, garantisce naturalmente la governabilità in qualche modo, e un diritto di tribuna dovrebbe garantire a tutti la presenza in Parlamento. Poi facciamo una cosa, facciamo anche una legge per smetterla con questo latinorum per nominare le leggi elettorali, per nominare le leggi elettorali che non se ne può più. Non l'ha nominata. Sentiamo la voce di un ascoltatore, di un'ascoltatrice, sentiamo, va. Latella e Spezia, vi facevo più intelligenti, non insistete con un'alleanza che non esiste, non può esistere un'alleanza strutturale. Può esistere un'alleanza di governo, come tra PC e PSI, come tra DC e PSI, vi ricordate? Chissà come si sentono i 5 Stelle Zanda ad essere paragonati ai partiti della Prima Repubblica. Ma tanto tra PC e PSI, alleanze di governo non me ne ricordo, intanto. Forse alleanze locali, sì. Vabbè, di governo non ricordo. Sì. Tra la DC e il PC ci fu un'alleanza che, per come Moro l'aveva immaginata, era veramente un'alleanza di prospettiva, perché era un'alleanza per governare il presente, ma era un'alleanza che stava preparando poi l'alternanza in Italia tra due partiti molto diversi. Va bene, grazie a Luigi Zanda per essere stato con noi, senatore del Partito Democratico, tesoriere, insomma oggi sarà la seconda giornata del conclave del PD. Ma fa davvero così freddo, senatore Zanda, che tutti vi lamentate sui giornali del freddo, dove vi ha portato Zingaretti in questa abbazia? È andato davanti al caminetto a riscaldarsi dopo l'intervista con noi. Cara Maria, ci risentiamo domani alle 8:20, preannuncio agli ascoltatori che parleremo di pensioni, quindi occhi e orecchie, soprattutto orecchie aperte naturalmente. Carmelo Laricelli, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione, Margherita in Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Per quanto ci riguarda ci risentiamo domani alle 6:30, una buona giornata da Simone Spezia, ciao.